Volante branco 55. A tutte le unità. Recarsi immediatamente nel bosco. A Autocobra 1 ci rechiamo sul posto passo. Volante bingo, 2 ci dirigiamo verso il bosco passo. Pattuglia Orco 3 e Ciccio 4 in servizio passo. Cargo 5, stiamo arrivando, passo e chiudo. Passo e chiudo. Pattuglie della polizia in tenuta antisommossa sono andate a caccia nel bosco, non cercavano il lupo cattivo ma una famiglia felice, felice la famiglia nel bosco. Oh, oh, oh. L'orchessa, una giudicessa tra una conferenza e il BGT decise che la libertà finisce qui. Non è un tuo diritto vivere nel bosco. L'orchestra, una giudacessa. Cinque pattuglie a caccia nel bosco mentre l'orchestra è in città. Ha eliminato la libertà. Bambini che vivono liberi nel bosco, ma l'orchista ha preso i bambini, li ha portati via. Arriva la polizia, la polizia, e li porta via, li porta via. Con la forza e la violenza allontana i bambini dalla famiglia nel bosco, che orchestra è terminata. Hanno allontanato la madre e i bambini. Saranno ospitati in una casa comune. La mamma al piano di sopra. I bambini al piano di sotto. Hanno eseguito gli ordini della vergogna, l'operazione orchessa, una vergogna, una famiglia felice, felice la famiglia nel bosco. Oh, oh, oh. L'orchessa della vergogna, nonostante la Costituzione riconosca il diritto di vivere nel bosco e istruire i propri figli, l'orchessa della vergogna è stata messa alla gogna. Cinque pattuglie a caccia nel bosco mentre l'orchestra in città ha eliminato la libertà. La libertà di vivere nel bosco. Libertà di vivere nel bosco con l'acqua pura del pozzo, immersi nella natura nel bosco, i pannelli solari e bambini che vivono liberi nel bosco. Ma l'orchestra ha preso i bambini, li ha portati via. Arriva la polizia, la polizia, e li porta via, li porta via. Con la forza e la violenza allontana i bambini dalla famiglia nel bosco. E viveva libera nel bosco, libera. vivono liberi nel bosco. La libertà di vivere nel bosco, con l'acqua pura del pozzo, immersi nella natura nel bosco. I pannelli solari ai bambini che vivono liberi nel bosco, la famiglia nel bosco, siamo noi. Questa è l'ennesima vergogna italiana, le scrombri che leghi per te, Maria le mosse sui bambini. Questa è l'ennesima vergogna italiana, a cosa di buttare in fidelio, che tu hai anche vitto e gli stroncerò il sogno. Il sogno e la famiglia nel bosco. Famiglia nel bosco, siamo.